Un libro tira l'altro, di Salvatore Carrubba. Buongiorno cari amiche e cari amici, oggi parliamo di un segmento della società che è sempre più ridotto ma che per secoli ha esercitato una funzione molto importante nella cultura e nella formazione della società occidentale, cioè le suore. Le troviamo nel libro di Silvia Evangelisti che si intitola Storia delle monache, pubblicato dal Mulino, 282 pagine, 26 euro. Il libro è una ricostruzione appassionante di un fenomeno che forgiò la società del periodo considerato, e cioè dalla metà del 400 circa fino al 1700. Un periodo nel quale un grandissimo numero di ragazze, anche di nobili famiglie, presero o furono costrette a prendere il velo. E qui, con grande passione ma anche grande attenzione, vengono ricostruite quelle esperienze e soprattutto viene spiegato quello che i grandi conventi riuscirono a fare e il ruolo che svolsero nella società contemporanea. Tra queste suore troviamo grandi sante, grandi mistiche, grandi scrittrici e anche grandi politiche che sapevano tutelare gli interessi delle congregazioni di cui facevano parte. Ma sentiamo su questo l'autrice. Buongiorno a Silvia Evangelisti. Buongiorno. Silvia Evangelisti, allora, il suo libro sulle monache comincia con un'osservazione, o meglio ho trovato nel libro un'osservazione sul convento come strumento di integrazione sociale. Ecco, in che senso il convento poteva svolgere questa funzione? Beh, innanzitutto il convento svolge svariate funzioni sociali, diciamo così. Una di queste è secondo me la funzione di integrazione sociale, nel senso che il convento è un'istituzione religiosa in un momento in cui la religione è certamente molto più importante a livello di vita pubblica e anche a livello di vita privata. E soprattutto in un momento, quello che il mio libro così copre, in cui le istituzioni religiose si stanno riorganizzando prima della riforma e poi con la riforma e anche dopo la riforma. Quindi il convento dà alle donne, secondo me, la possibilità di far parte di un'istituzione che per il tipo di società italiana del 5-600 con la Controriforma è un'istituzione molto importante non solo dal punto di vista religioso, ma anche dal punto di vista politico, pubblico, di vita pubblica. Quindi offre alle donne una collocazione in un'istituzione ben integrata nella società italiana di quell'epoca e anche che ha a che fare con la vita pubblica. Quindi dal privato della famiglia si muovono in un'istituzione che è reclusione, vita privata eccetera, ma è anche vita pubblica. In queste funzioni sociali del convento lei sottolinea quella dei sistemi di welfare premoderni, come lei li chiama, e lo sviluppo e la funzione dell'educazione femminile, quindi insomma i conventi hanno svolto anche una funzione di welfare. Sì, alcuni conventi in particolare, quelli che vengono fondati soprattutto dal 500 in poi, non i vecchi conventi di origine medievale eccetera, che sì, certamente fungevano da istituzioni dell'educazione femminile dell'elite, ma soprattutto quelli che vengono fondati appunto con l'ondata della Controriforma e vengono fondati anche come istituzioni per le donne meno ricche, non direi proprio le povere, alcuni sì, anche le povere ex prostitute desiderose di sgravarsi dai propri peccati, però vengono anche fondati conventi che sono proprio per l'educazione femminile, per insegnare alle donne a lavorare e per coprire, diciamo così, la vulnerabilità femminile delle classi medio-basse e quindi fare parte di istituzioni che sono molto simili al welfare pubblico. Alcuni di questi sono sponsorizzati anche dagli stati locali, come il Granducato di Toscana, Milano, eccetera. Il suo libro si conclude infatti con l'esperienza delle figlie della carità. Sì, sì, esatto, molto interessante, un'esperienza molto francese, che però parte dalla Francia e poi si estendono questi ordini fondati fra il tardo 5 e i primi 600, poi hanno una vita molto lunga e si espandono a livello globale, quindi hanno molto successo proprio perché rispondono al bisogno anche di, appunto, di welfare, in un momento in cui il welfare state è al suo veramente inizio, si chiama ancora carità pubblica. Ecco, queste forme di carità pubblica legate alle istituzioni religiose femminili sono molto importanti. Tra l'altro queste, per l'educazione e per il lavoro. Queste figlie della carità sfuggirono alla regola della clausura. Che cosa significò la clausura nel sistema dei conventi femminili? Beh, la clausura è un elemento fondante dell'idea del convento femminile. e anche per certe cose dei conventi maschili dalle origini, c'è sempre questa idea di separazione, di chiusura, di separazione dal mondo, di fuga dal mondo nella storia del monachesimo. Per quanto riguarda le donne, la clausura viene molto sponsorizzata dal Concilio di Trento, quindi dalla Controriforma, come non viene affatto sponsorizzata per gli uomini, perché per i monaci non c'è l'obbligo della clausura, diventa una regola su cui la Chiesa punta molto, pensando all'onore, alla verginità, eccetera, e per le donne certamente per le suore che vivevano in clausura rappresenta, come i documenti spiegano, illustrano ampiamente, rappresenta un po' un'idea di prigione, di chiusura, di impedimento anche per esempio di uscire, lavorare fuori e poi ritornare nel convento, di avere giovani in educazione che vengono in convento, diventa un po' un problema. Però la clausura anche garantisce, per esempio in alcuni casi, al mondo, a chi vive all'interno delle mura, un minimo di protezione, per esempio, come illustrano gli studi più recenti, in momenti di peste nei conventi si moriva di meno, proprio perché c'era meno contatto con l'esterno. Visto che siamo a Milano, ricordo che lei a un certo punto parla del convento di Santa Redegonda qui a Milano, che era famoso, ne abbiamo anche il testimonianze letterarie di questa fama, per la qualità musicale del sì. Convento e delle suore. Ecco, che cosa rappresentò l'arte e la cultura per il sistema di cui lei parla? Beh, innanzitutto rappresenta bene il convento, cioè il convento è anche un luogo di cultura, di produzione di cultura, di produzione di cultura letteraria, di poesia e anche di arte, arte visiva e di musica. Quindi diciamo il convento è legato alle arti in generale. Per quanto riguarda la musica di nuovo rappresentava prima di tutto l'idea di potere anche dedicarsi a un'arte che fosse collettiva e fruibile all'interno del convento, anche come forma di divertimento, in un momento in cui, come dicono molto spesso le lettere delle monache sorelle di Santa Teresa, si muore di noia in convento, quindi ha questo elemento, diciamo così, di divertimento, un po' come poi la musica diventerà dopo, anche più tardi, a livello pubblico. Ma certamente la musica implica anche un legame con il fuori, implica la possibilità di cantare dal coro e di suonare dall'interno del coro quando fuori nella chiesa esterna ci sono dei musicisti che cantano e suonano, quindi implica anche un legame con il fuori e implica anche la possibilità di, diciamo così, aggirare le regole della clausura attraverso la cultura. Non si muovono dal convento, ma facendo musica, la musica per eccellenza si muove da uno spazio all'altro, le suore riescono in qualche modo a sentirsi partecipe del mondo esterno. Bene, grazie a Silvia Evangelisti, autrice grazie di Storia delle Monache. Buona domenica. Arrivederci. Passiamo invece adesso a un frate, Luigi Accattoli, che è uno dei vaticanisti più noti, intervista il priore della Certosa di Serra San Bruno, che a sua volta è uno dei più antichi e illustri conventi certosini, situato in Calabria, Dom Jacques Dupont, e frutto di questo colloquio è il libro Solo dinanzi all'unico, è pubblicato da Rubbettino, 142 pagine, 12 euro. Accattoli ha visitato il priore prima della visita di Benedetto XVI, che ebbe luogo nell'ottobre del 2011 a Serra San Bruno, e ne emerge, scrive, una trattazione dall'andamento circolare o adelica, che cioè svolge, spiega l'autore, i diversi argomenti avendo cura di raccordarli alla questione centrale dell'umanità che si pone alla ricerca di Dio, o per dire meglio, di umanità che oggi si ponga a quella ricerca. È una trattazione interessante, questa soprattutto per le riflessioni del priore sull'ascesi e la penitenza, che non fanno affatto sentire i monaci che le praticano fuori dal mondo. Per esempio il priore illustra e spiega il rito del mangiare da soli con queste parole. Il mangiare e il bere sono vissuti come un momento di comunione con il cosmo. Anche in questo caso, come per la prostrazione e la veglia notturna, potremmo parlare di liturgia cosmica. E un altro sacerdote, Cesare Liminsinia Atuire, che è l'amministratore delegato dell'Opera Romani Pellegrinaggio, affronta un altro tema nel quale la sensibilità religiosa è centrale e che magari sarà al centro di alcune vostre decisioni nelle prossime settimane in cui si organizzano le vacanze, cioè il pellegrinaggio. Il libro si intitola Il viaggio della vita, è pubblicato da Five Store, 192 pagine, 12,90 euro. Qui troviamo testimonianze, mete ed esperienze relative ai tanti pellegrinaggi, alcuni diventati o tornati a essere molto popolari come il Cammino di Santiago. e il segno, dice l'autore, di un autentico pilgrim lifestyle che si sta imponendo. Una scelta, scrive, che è un modo di concepire i giorni che trascorriamo su questa terra, che trova una sua esplicitazione anche nel modo di utilizzare il viaggio per conoscere, arricchirsi spiritualmente e culturalmente ed entrare in contatto con la natura, con altre persone, con Dio stesso. In fondo, conclude il padre, è un modo evoluto di vivere il turismo. Prima di dare la linea alle informazioni sul traffico, vi ricordo che è in corso a Verbania Letteraltura 2012, la sesta edizione di questa iniziativa che mette insieme cultura del territorio, cultura materiale e con molti incontri. Quest'anno sono oltre 50 eventi con 60 ospiti. Oggi per esempio a Verbania si parlerà di Giorgio Bocca, lo farà Marco Revelli alle 16.30 e poi più tardi alle 18 in un incontro organizzato da Alleni ci sarà un incontro con Luis Sepulveda a proposito della Patagonia. E poi l'iniziativa continuerà perché si è finita la fase di Verbania il 1 luglio, Baceno e Crodo il 7 e 8 luglio, Ameno e Miasino il 14 e 15, e poi Macugnaga il 20, il 21 e il 22 luglio ospiteranno gli ultimi appuntamenti dell'iniziativa. E ricordo che c'è tempo fino al 31 luglio per partecipare all'iniziativa Giallo 24. Gli ascoltatori che vogliono cimentarsi con la scrittura possono mandare i loro gialli e i migliori saranno premiati essendo trasmessi sulla trasmissione nuova di Radio 24, Giallo 24. Un libro tira l'altro. Ben ritrovati con Salvatore Carruba. È in corso fino al 25 settembre a Milano, al Castello Sforzesco, una mostra, tra l'altro a ingresso gratuito, dedicata al Bramantino. La mostra è curata da Giovanni Agosti, Jacopo Stoppa e Marco Tanzi. Il catalogo è di Officina Libraria, 34 euro, 376 pagine. Il Bramantino è uno dei più affascinanti e anche meno noti protagonisti del Rinascimento lombardo, la cui opera è custodita soprattutto, anche se non esclusivamente, proprio a Milano. E quindi questo è un appuntamento importante anche per alcune modalità, tipo appunto quella che ricordavo, cioè la gratuità dell'ingresso. Ma sentiamo su questa mostra Marco Carminati, al quale chiedo di segnalarci un aspetto particolarmente interessante. Ciao Marco. Ciao Salvatore. Sì, in effetti questa mostra dà la possibilità di scoprire uno dei più grandi pittori del Rinascimento milanese e lombardo, forse il più grande, messo in ombra solo dalla presenza di Leonardo da Vinci proprio negli stessi anni in cui Bartolomeo Suardi, detto il Bramantino, vive alla corte degli Sforza. L'opera che vorrei mettere in evidenza è un'opera che si trova nel Castello Sforzesco ed è dipinta sul muro, quindi venne realizzata da Bramantino proprio per la corte degli Sforza. È un affresco veramente singolare. Intanto è singolare il luogo dove si trova. Non era certo un luogo pubblico. Pensate che si trova nella sala del tesoro, dove gli Sforza accomunavano delle ricchezze straordinarie. Dicono gli ambasciatori che un capriolo non le saltaria, talmente erano alte questi mucchi, probabilmente di vasellami, di oggetti preziosi. E proprio nella sala del tesoro c'era una stanzetta annessa dove si conservavano le cose ancora più preziose, ed è proprio sopra la porta di questa stanzetta che il nostro Bramantino dipinge una figura mitologica molto significativa, cioè la figura di Argo. Argo era un gigante dotato di tantissimi occhi, poteva vedere sempre e comunque, quando dormiva una parte degli occhi stavano chiusi e una parte stavano aperti, e quindi era la figura mitologica che faceva la guardia ai tesori degli Sforza. Noi sappiamo che si tratta di Argo perché questo affresco raffigura un gigante che ha attorno a sé dei tondi di finto metallo. Il pittore immagina di dipingere anche dei tondi in ottone o rame sbalzato, e questi tondi raccontano le storie di questo Argo, e brevemente le storie sono queste. Giove aveva un amante che si chiamava Io, e a un certo punto la tramuta in giumenta per nasconderla alla moglie, che era Giunone. Solo che Giunone si accorge, si fa dare questa giumenta, e a un certo punto il nostro Giove deve farla liberare e chiede a Mercurio di liberarla. Perché? Perché la giumenta è sotto l'occhio vigile di Argo, che è il controllore per eccellenza. Mercurio si avvicina ad Argo, lo ammansisce con la musica, lo addormenta e lo uccide. Ed ecco che questa storia raccontata in uno dei tondi ci permette di capire che quel gigante raffigurato lì è proprio Argo. Tra l'altro la tradizione vuole che i tanti occhi che Argo possedeva, la Giunone vuole che vengano appoggiati sulle piume di due pavoni, cioè l'animale sacro a Giunone. E infatti nell'affresco, se osservate bene, ci sono proprio due pavoni balconi appoggiati a questa mensola di finto marmo dove si trova l'Argo. Questo dipinto è straordinariamente ben conservato perché ha subito una storia abbastanza traumatica. Quando il pittore lo realizza, qualche anno dopo viene fatta una grande ristrutturazione della Sala del Tesoro e viene fatta una volta nuova che praticamente taglia la testa a questo gigante. L'affresco viene quindi nascosto sotto l'intonaco e ci resterà fino alla fine del 1800, quindi protetto dalle intemperie, quando, facendo dei lavori di ristrutturazione, ci si accorge che in quel punto ci sono le pitture. E noi oggi ammiriamo stupefatti questo dipinto, che tra l'altro mette proprio in evidenza la lezione di Bramante, perché Bramantino ha questo soprannome perché guardava al Bramante, che aveva realizzato in una casa di Milano una serie di gigantesche figure che il nostro Argo riprende proprio in questa sua possente immagine di eroe dai 100 occhi collocato dentro la nicchia a curare il tesoro. Leggete la scritta che c'è sotto, in latino vuol dire chiavi false, allontanatevi. Quindi un monito a non entrare e rubare il tesoro degli Sforza. Uomo di inquieta avanguardia, così definisce Bramantino lo studioso Giovanni Romano, che insegna all'Università di Torino, autore di Rinascimento in Lombardia, Foppa Zenale Leonardo Bramantino, pubblicato da Feltrinelli, 262 pagine, 30 euro. Per approfondire la conoscenza di questo artista e anche degli altri citati, il libro è molto utile e ci permette di conoscere un periodo esaltante dell'arte italiana. In questo volume troviamo quindi una raccolta di saggi su questi temi dell'autore. Allargo ulteriormente la prospettiva degli studi sul Rinascimento il libro di una studiosa francese, Elisabeth Cruzet Pavan, Rinascimenti italiani 1380-1500, è pubblicato da Biella, 464 pagine, 38 euro, ed è tradotto da Lorenzo Biagini. Questo libro non è solo sull'arte, l'autrice infatti è una storica, ma soprattutto permette di cogliere la straordinaria ricchezza delle esperienze artistiche, ma anche politiche dell'Italia. L'Italia è un paese frammentato, con molte signorie, ciascuna delle quali ambisce a dare sfoggio nel campo della cultura e nel campo naturalmente dell'influenza politica. Sono gli anni di un grande cambiamento, quelli dell'Italia rinascimentale, che naturalmente produrranno una svolta sull'intera cultura moderna. Lo testimoniano per esempio queste righe che dedichiamo a una città che è stata lambita anch'essa dal recente terremoto che ha colpito l'Emilia-Romagna, e cioè Mantova. La decorazione della Camera degli Sposi mette in scena il potere del principe. Il signore, che fino ad allora amava farsi rappresentare come il cavaliere ideale del ciclo arturiano dipinto da Pisanello, nella Camera incarna la prosperità e la pace di un'età dell'oro, mentre la corte si raduna intorno alla sua immagine. La signoria si era trasformata in principato, la sovranità principesca doveva risplendere sulla città. Questa era la funzione della piazza aperta davanti al palazzo. La ristrutturazione urbana progrediva spedita, o sarebbe meglio dire la riqualificazione, poiché non si trattava ancora di veri e propri cambiamenti radicali. Le vie venivano rettificate e pavimentate, i terreni paludosi bonificati. Grazie ai lavori compiuti sugli edifici pubblici e sulle chiese, nuove presenze monumentali si inserivano nel tessuto urbano medievale. E grazie agli interventi di Mantegna sul castello e di Alberti sulle chiese di Sant'Andrea e San Sebastiano, l'impronta della nuova arte si depositò sulla città antica. La magnificenza del principe si manifestò nella gloria degli edifici. Restiamo in epoca rinascimentale per collegarci a un evento che certamente monopolizzerà l'interesse di quasi tutti questa domenica, ossia la finale del campionato europeo di calcio. Il libro si intitola appunto Calcio ed è un romanzo di Juan Esteban Constain, che è uno scrittore docente universitario colombiano, e pubblicato da Tropea, 192 pagine, 14 euro, tradotto da Sandro Ossola. Protagonista del libro è un grande della cultura italiana, Arnaldo Mobigliano, eccelso studioso del mondo classico, che si trova a Oxford, dove era sfuggito alle persecuzioni razziali. Qui, in una serata che dovrebbe essere conviviale, ardisce esprimere la tesi che il calcio sia nato a Firenze nel 1530. Non l'avesse mai detto, ne nasce un'autentica rissa scommessa accademica, perché gli inglesi vogliono a tutti i costi difendere il loro primato e fare del calcio uno sport assolutamente britannico. E allora, per dirimere la questione, viene nominato un tribunale d'onore, per evitare magari un duello, che dovrà appunto decidere chi degli studiosi abbia ragione. E il libro quindi vira ben presto nella ricostruzione storica della Firenze del 1527, quando maturano le condizioni che portarono alla partita. I fiorentini dal 1529 sono assediati dagli spagnoli e a un certo punto si apre una trattativa per la quale l'imperatore Carlo V pone una condizione per i fiorentini inaccettabile, quella che essi rinuncino a festeggiare il carnevale. E allora, proprio per sfida, organizzano una partita di calcio tra i quartieri da giocare il 17 febbraio, una data scelta perché era una settimana prima della stessa incoronazione di Carlo V a Bologna. Il 20 febbraio la grande sfida, una partita che viene giocata tra fiorentini e spagnoli, una partita destinata a entrare nella storia, come spiegano queste righe. Quella che si giocò in piazza di Santa Croce non fu altro che una forma privativa, ma non per questo meno legittima, di quello che oggi conosciamo come football. Qualcuno potrà dire che si trattò solo di una partita in più del celebre calcio fiorentino, in seguito tanto studiato, le cui regole erano molto diverse da quelle del calcio odierno, semmai più vicine a quelle del rugby o di quello che gli americani chiamano football, che altro non è che un rugby metodico per quaccheri e bacchettoni. Ma risulta che il gioco del 20 febbraio non fu solo una singolarità storica, il potere, il popolo, ma anche una singolarità sportiva, perché in esso, mentre si svolgeva la guerra, furono cambiate per una volta nella vita le regole del calcio, e quello che giocarono quegli uomini fu football duro e puro, non molto diverso da quello che ai nostri giorni fa fremere mezza umanità e condanna l'altra metà alla sofferenza o alla solitudine o all'esilio. Come tutto avvenne, si può leggere nei documenti oggi conservati negli archivi di Firenze, e anche solo con pochi di questi posso ricreare qui, quasi al volo, senza dettagli né eccessi, la data inaugurale e dimenticata del football. Quando al calcio furono tolti i pugni e l'acciaio, e la gente gridò per la prima volta al gol. E l'attenzione con Momigliano come finì? Che l'accordo accademico non si poté trovare, e allora venne giocata il 5 maggio del 1948 a Torino una partita tra Italia e Inghilterra, purtroppo vinta da quest'ultima. Il confettino. Rimaniamo in ambito sportivo con Pick and Roll, la squadra di basket di Marco Menozzi, illustrato da Antonio Campo, casa editrice Tea, 160 pagine, 10 euro. Questo è per lettori già grandicelli, diciamo degli 8-9 anni, ed è un romanzo di iniziazione per la quale la pallacanestro svolge un ruolo fondamentale nella vita di Alberto, il protagonista. E con questo ringrazio Luca Cremonesi, redazione, Fabio Cantadori, regia. Vi ricordo il nostro indirizzo di posta elettronica, il libro @radio24.it e il nostro sito www.radio24.it, sul quale potete riascoltare sempre questa e tutte le altre nostre trasmissioni. Vi auguro buona domenica e vi do appuntamento la settimana prossima.